Pronuncio giusto il tuo nome proprio Pai. Pai. Sul tuo pianeta dimmi il reggae te lo fai. Mai. La destra in giù, la destra eccola qua, sinistra in su, sinistra eccola qua, riunire dai, ma è politica che fai, che dici mai? E da voi c'è, partiti non ce n'è, si spara o no, armarsi non si può, la grana c'è. Pai. Ma tu l'amore sul pianeta te lo fai. Pai. Non ho capito bene, un uomo tu ce l'hai. Pai. Più uno come me, io ci crederò, mi piaci tu, tanto anche tu, grazie a te, prego grazie a te, mi sento tanto. Bye. Amore e reggae insieme a me imparerai. Bye. Volare via e stare in terra lo vedrai. Bye. Oh, bye.